Il signore Calvo dall'area militare parlava delle nuove strade per carri armati che dovevano proteggere la colonia da un'eventuale invasione. Hong Kong è assolutamente inespugnabile, assolutamente inespugnabile. I nostri carri armati possono arrivare dovunque. Vorrei vedere chi avrà il coraggio di tentare un'invasione. Sono le forze di polizia che dovremmo rafforzare, disse William Monk. Avremo bisogno di una rete di stazioni di polizia che copra l'intera colonia. Siamo indifesi all'interno e gli indigeni si stanno già organizzando contro di noi. Le attività sovversive dilagano persino nelle nostre istituzioni accademiche. Proprio così, rabbrividì la signora lentiginosa. Hong Kong è terribilmente stancante. Oltre al clima c'è tutta quella gente terribile che non riesce a evitare nemmeno sul pic. E per un istante i suoi occhi si chiusero per tenere lontana la folla. Hong Kong sarebbe un posto meraviglioso se non ci fossero tanti cinesi, annuì Martha Monk servendosi per la seconda volta di pesce e Adeline pose tosto fine al breve silenzio imbarazzato che aveva fatto seguito a questa dichiarazione, lanciandomi un'occhiata piena di tatto che valse a rassicurarmi sulla mia tangibile presenza fisica. Il solo rimedio possibile, disse, è il controllo delle nascite. Nascono troppi bambini, c'è troppa gente al mondo. Fra 50 anni soffriremo tutti la fame. Qualcuno dovrebbe occuparsi di organizzare una grande campagna di propaganda fra i cinesi. Adeline, cara, siete un vero genio, la interruppe la signora lentiginosa. La vostra energia è davvero meravigliosa, io ne morirei. La signora magrissima, giunta da poco dall'Inghilterra, esaltava ancora liricamente le gioie di una vita con molta servitù. Non credevo che al mondo esistesse ancora un luogo dove fosse possibile avere una vita beata. Tuttavia, obiettò l'uomo dall'aria marziale, Hong Kong non è più quella che era. Ai vecchi tempi. E tutti, a eccezione di me, si unirono a lui nella corsa ai ricordi dei tempi d'oro. 25 anni fa ero capo della Compagnia del Petrolio di Kaku. A Natale avemmo una grossa gratifica per aver venduto munizioni a tutti i signori della guerra in Cina. Se quei coolies avessero osato scioperare, non avremmo esitato a mandar loro incontro uno squadrone di cavalleria. Le 11:30. La ferocia sembrava fiorare su tutti quei visi. La signora lentiginosa non era più una donna, bensì uno strano animale carnivoro, e i muscoli rilasciati del collo di Mrs. Monk ricordavano una elaborata macchina di tortura. Il riso dell'uomo dall'area militare mi paralizzava di paura con i suoi denti cariati e il palato rosa della dentiera. Non avevo notato fino a quel momento quanto le mani di William Monk fossero brutali. Sempre più atterrita, man mano che i minuti passavano, attanagliata di nuovo da quel terrore che solo Mark poteva far dileguare, sperduta fra il rumore di tante mascelle e di tante parole, lo chiamavo, mormorando il suo nome come il solo talismano che potesse confortarmi. Poi, d'un tratto, ogni terrore scomparve e quella fu di nuovo gente qualsiasi, stupida gente che diceva cose comuni, crudeli e stupide intorno a una tavola, gente ipernutrita in un mondo governato dalla fame. Era ormai molto tardi e desideravo ardentemente di andarmene. Adeline e Martha Monk conversavano fra loro. Sì, dovetti invitarla a cena. Sapete bene, ognuno ha le proprie responsabilità, ma come avrei potuto impedirle di parlare? È una tale socialista. Allora organizzai dei giochi e una caccia al tesoro. Certo, a tavola fu un po' difficile perché non si può fare nessun gioco mentre si mangia. Marta era contraria al governo laburista. Sta buttando via il nostro impero. Guardate l'India. Gli indigeni non potranno mai governarsi da soli. Humphrey parlava del commercio con la Cina. Vivere e lasciar vivere. Tratteremo con loro finché si comporteranno decentemente. Non ci siamo mai rifiutati di commerciare con nessuno. Kennaway è ancora a Shanghai. Vuol tener duro fino alla fine, disse a William Monk. Non ci sarebbe Shanghai senza Kennaway. Naturalmente finiremo con riconoscerli. Ogni nazione è libera di governarsi come vuole finché non si rifiuta di commerciare. Mezzanotte. Noi signore ci ritirammo per incipriarci il naso, lasciando gli uomini al loro bicchiere di porto. Poi ritornammo in salotto dove vennero offerti caffè e liquori. I miei occhi non riuscivano a staccarsi dall'orologio. Mrs. Palmer Jones mi rivolse la parola una sola volta per chiedermi se avessi una bambina e alla mia risposta affermativa si dichiarò lieta che io potessi godere della sua compagnia. Poi la nostra conversazione ebbe fine. Martha Monk, la nuova arrivata dall'Inghilterra, e la signora Lentiginosa presero a chiacchierare volubilmente mentre Adeline teneva sempre le redini della conversazione. Comitati, balli, concerti di beneficenza e riunioni si susseguivano rapidamente sulle sue labbra. Non credo che quella signora la pensasse come noi, e sono lieta di poter dire che non è stata accettata come socia. Era quasi l'una quando gli uomini ci raggiunsero. Per quanto fissassi l'orologio nella speranza di fermare le lancette col mio sguardo, l'inevitabile accadde. La porticina alla sommità dell'orologio si spalancò e il cuculo bianco e rosso comparve sulla soglia. Era l'una. Le signore continuavano a chiacchierare e a criticare. William Monk era ingolfato in una lunga storia. La ragazza era venuta a cercare un impiego, ma dobbiamo andar cauti con queste giovani che ci arrivano da casa nostra. Gli effetti del governo laburista si fanno sentire. Le chiesi quali fossero le sue idee politiche. Leggo l'Economist, mi rispose. Bene, le dico, non leggetelo più. Qui a Hong Kong non facciamo della politica. Alla politica preferiamo il golf e il nuoto. L'una passata. I Monk se ne andavano e accettai un passaggio nella loro macchina, ignorando la smorfia di contrarietà di Mrs. Monk al cortese invito del marito. Con un certo rincrescimento strinsi la mano di Adeline Palmer Jones, rendendomi conto che mai più sarei stata fra gli eletti e forse nemmeno fra gli invitati del grande cocktail annuale. Mi era simpatica. Sedetti sul sedile posteriore, poiché Mrs. Monk mi disse di soffrire di nausea se non sedeva davanti, accanto al marito, e cercai di dominare la mia impazienza, sebbene William Monk guidasse con esasperante lentezza. Ero in ritardo di 2 ore e mezza. Ormai nessuna Morris Verde poteva più aspettarmi a luci spente fuori dall'ospedale. Avvilita e piena di pietà per me stessa, pregavo: «Oh! Iddio, se ci siete davvero, fate che non sia in collera con me. Non lasciate che se ne vada prima che l'abbia rivisto, ve ne supplico». Forte fu la mia preghiera fatta di parole infantili e il cielo dovette udirmi, poiché alla svolta del viale scorsi nell'oscurità l'ombra che era la sua macchina, a luci spente nel buio. Ma non potevo sbagliarmi. Balzai a terra, ringraziai allegramente i Monk e corsi alla porta dell'ospedale per riuscirvi immediatamente, non appena le luci posteriori dell'automobile furono scomparse. Mark sedeva nel buio, in silenzio, e volse appena il capo quando aprii lo sportello e sedetti accanto a lui. «Scusami, quel ricevimento non finiva mai». «Non importa». La sua voce era calma e tranquilla, come se non lo avessi fatto aspettare nemmeno un minuto. Improvvisamente fu come se il tempo si fosse annullato, cancellato dalle sue parole, e scomparvero anche la futilità, la meschinità, le sciocche irritazioni della serata. «Oh!» sussurrai. «Com'è bello conoscere un uomo che non vive attaccato alle lancette dell'orologio, misurando il tempo a ore e a minuti. Mi piace tanto!» «Sapevo che saresti venuta e quindi ti ho attesa, senza nemmeno accorgermene. Non avevamo bisogno di guardarci o di toccarci. Mi piaceva sedere così, senza desiderare nulla. Un po' confusa dalla stanchezza, ma sapendo che lui era vivo e che io ero viva con lui e che eravamo insieme, estranei giunti da lontano per incontrarci. Un semplice caso ci aveva fatti trovare e ora ci conoscevamo bene. Sedevamo in silenzio, spaventati e grati al tempo stesso, spaventati al pensiero che avremmo potuto non incontrarci mai, e grati, senza chiedere di più, perché quel poco che avevamo era già quasi troppo grande per noi. E mentre sedevamo nell'oscurità, avvolti dalla protezione del silenzio, una grande dolcezza ci invase, prendendoci alla gola e scendendo giù giù fino alle ginocchia. Dopo un intervallo infinito, poiché il tempo non esisteva, Mark disse: «È tardi, devi riposare. Buonanotte, amor mio». Aprii lo sportello della macchina e scesi, lasciandolo solo. Mentre scrivo queste parole, tanto lontana da lui nel tempo e nello spazio, divisi dalla vita stessa, mi sembra di essere ancora avvolta nel silenzioso abbraccio dell'oscurità, seduta accanto all'infinita dolcezza di Mark. La sua dolcezza è ancora in me e non chiedo altro, poiché null'altro potrà mai esserci per me. Capitolo 12. Le reti del destino. Luglio 1949. Non sapevo che Mark fosse tanto bello fino a quella domenica in cui andammo a nuotare a Repulse Bay. I miei amici di Shanghai, Robert e Nora Hung, avevano preso in affitto una casa alla baia per i mesi estivi e mia figlia May e Maya Wong, giunta in vacanza da Shanghai coi suoi bambini, erano loro ospiti. Robert e Nora avevano conosciuto Mark Elliott a Shanghai e lo avevano invitato, insieme ad altri amici europei, a passare una giornata in riva al mare. I Hung erano cosmopoliti. Quando arrivai, Robert stava ascoltando Radio Hong Kong. La sera precedente, l'Amethyst aveva levato gli ormeggi e, approfittando dell'oscurità, era riuscita ad allontanarsi dallo Yangtze. Ora, bombardate con parecchi feriti a bordo, si dirigeva su Hong Kong. I corrispondenti stranieri hanno noleggiato il Belfast per andare incontro all'Amethyst. Mi disse Robert. Non credo che Elliot potrà venire oggi. 10 minuti più tardi, fresco ed elegante, come sempre, nel suo completo bianco, Mark fece la sua comparsa. Portava, buttata sulla spalla sinistra, una borsa da bagno cinese coi disegni di pavoni sul fondo rosso, a punto croce. Al vederlo mi sentii invadere da una grande debolezza e dovetti inghiottire più volte. Allora distolsi lo sguardo e presi a fissare l'orizzonte sfumato, vagamente segnato dal mare e dal cielo, oltre i pini della radura. Non mi è sembrata una cosa ragionevole quella di rinchiudermi per 2 giorni con un'orda di colleghi tagliati fuori da ogni mezzo di comunicazione, diceva Mark a Robert. D'altra parte è una magnifica giornata e io adoro il nuoto, soggiunse con petulanza. Nora gli sorrise, felice che fosse venuto, poiché detestava di dover cambiare i suoi piani all'ultimo momento, quando aveva organizzato qualcosa. Maya mi si parò dinanzi, scherzosa. «È simpatico!» sussurrò. Le mie guance avvamparono. «Va via!» le dissi bruscamente. Quando Mark ricomparve nell'attillato costume da bagno rosso, dovetti nuovamente distogliere lo sguardo. La vista di una cosa bella mi sconvolge sempre. Il suo corpo era giovane e fresco, con anche evita strette, pochi peli biondi alle ascelle e la pelle liscia quanto quella di un cinese. Notai i piedi snelli, le gambe brune, le orecchie piccole, la bella forma della testa. Era come se qualcuno mi stesse prendendo a calci nel ventre. Esperienza che purtroppo avevo dovuto subire molti anni prima, quando la polizia segreta del Kuomintang aveva commesso un piccolo errore circa la mia identità. Guardandolo, compresi quello che i poeti del mio paese e gli ebrei della Bibbia avevano voluto dire, parlando di un'emozione che fa liquefare internamente. Una fiamma morbida e calda mi palpitava dentro, un fuoco di lancinante dolcezza mi percorreva dalle reni all'ombelico, dalle gambe alle braccia, e avevo l'immediata percezione della realtà delle cose, del mare, delle rocce, della corteccia dei pini sulla radura, dell'erba sotto i miei piedi nudi. Tutto era dolorosamente vivo, tutto gridava l'esultanza di vivere. Tutto quello che vedevo, udivo e toccavo era Mark. «Sei abbronzato?» osservai in tono insolente. «Sei stato molto al sole». «Oh, sì, a Formosa giocavo molto a tennis e qui non manco mai di fare una bella nuotata ogni giorno». Robert mi offrì un cognac e soda, che ingoiai obbediente, ma non servì a nulla. Dovetti rinchiudermi nel bagno dove vomitai tranquillamente, coscienziosamente. Poi sedetti sulle mattonelle rosse del pavimento cercando di riflettere. Non mentire a te stessa. Tu desideri quest'uomo, vuoi essere sua. Soltanto non sai ancora se dopo lo odierai. Sei come un gatto in amore, dovresti vergognarti. Lui è straniero e tu hai intenzione di ritornare in Cina, e per di più è sposato. Non perdere la testa, non puoi permettertelo, questo non è amore, è fame. Per Perché mai quest'uomo deve turbarti tanto? Altri hanno tentato e tu ne sei stata terrorizzata. Tutto è contro di te, ricordati, è uno straniero e tu ritornerai in Cina. Ma non potei trovare la risposta che cercavo e così rimisi tutto in ordine e uscii. Gli altri erano già tutti alla spiaggia, ma Mark mi aspettava seduto sull'erba a gambe incrociate. Si alzò e mi sorrise. Ci guardammo. Cammina davanti a me, gli dissi rudemente mentre scendevamo i gradini tagliati nella roccia che portavano alla spiaggia. Non potevo sopportare il suo sguardo sul mio corpo. May e i tre figli di Maya correvano felici, da veri cinesini dal corpo abbronzato che non hanno bisogno di cappello. May si avvicinò a Mark per guardarlo e «Non sei abbronzato come me!» gli gridò trionfante e poi corse via. Robert aveva fatto una specie di rete con una vecchia camicia e cercava di acchiappare pesciolini per i bambini. Mark ed io sedemmo a circa 3 metri l'uno dall'altro voltandoci le spalle. Lui guardando il mare ed io la casa, in modo che i nostri sguardi non potessero incontrarsi. Sempre così dovevamo sedere in seguito, quando eravamo costretti a parlare di cose penose, fino al giorno in cui nulla poté più sembrarci penoso. Non so davvero quello che Dio intenda fare di noi due, disse Mark, ma non voglio una semplice avventura. Sei sempre convinta che il pensiero di te che mi ossessiona giorno e notte sia soltanto un'infatuazione? Ah, voi inglesi parlate d'amore con leggerezza, risposi. Troppo facilmente dite di innamorarvi. In Cina abbiamo un'altra concezione dell'amore. Non posso degnare del nome amore il sentimento che provo per te ora. L'amore è una cosa immensa. L'amore è una cosa immensa, approvò Mark. Voglio farti una domanda. Mi giudichi superficiale? No, perché? Perché sono stato giudicato superficiale ed emotivamente insufficiente. Sembra che non riesca ad adeguarmi alle consuete espressioni di sentimento, alle convenzioni generalmente accettate. Sulle prime ne rimasi turbato, ma poi finii con l'ammettere di essere freddo ed emotivamente neutro, incapace di sentimenti profondi, così come tu sei stata fisicamente neutra. E così terminai per lui. Hai svolto un'attività febbrile come corrispondente di guerra, cacciandoti in pericoli di ogni genere. Egli non rispose, ma fece per alzarsi come se volesse andarsene. Non fuggire ora, lo trattenni. Parliamo un po' di me. Sono sempre stata dura e insensibile. Su Iene senza cuore, diceva mia madre. Non piange mai se non per rabbia. Mark sorrise. Tu, mia cara, sei una elisabettiana, dotata di una forza passionale da far paura. Con te è sempre tutto o nulla. Sei addirittura traboccante di vita e quando sono accanto a te anch'io divento vivo. Per questo non posso perderti. Ti rosichi le unghie, osservai. È vero, ammise umilmente. Un giorno o l'altro smetterai di rosicchiartele. Mark sorrise della mia ingenuità. Quel giorno, dichiarò allegramente, saprò per certo che tu hai su di me un potere che nessun altro ha mai avuto. Non voglio esercitare alcun potere su di te, non ci deve essere fra noi alcun peso sentimentale. L'amore non è né sentimento né emozione, è un prepararsi alla battaglia, un vuoto che non lascia nulla dietro di sé, come la morte. Se mai imparerò ad amarti, e Dio non voglia, diventeremo entrambi duri e insensibili secondo la mentalità corrente. L'amore non è fradicio sentimentalismo e avidità infantile, non è la vuota beffa del possesso né il ricatto delle lacrime. Gran parte di noi non sa affatto che cosa sia veramente, ed io stessa non lo sapevo fino a questo momento. L'amore diventa adulto. Vorrei stare sempre con te, disse Mark. Passo tutto il mio tempo ad attendere il nostro prossimo incontro. Anch'io non faccio che pensare a te. Ho fame e sete di te e mi ribello al destino che ha voluto così, ma non chiamo questo amore. Non ancora. Per me è un po' diverso, disse Mark. Tu mi desideri più che altro fisicamente. È il maschio in me che tu vuoi. Ma prima che diventiamo amanti, tecnicamente parlando, Devi sapere che sei già la padrona assoluta dei miei pensieri e delle mie azioni. Per me il fatto che diventiamo amanti non è la cosa più importante. Ti prego non parlare di affinità spirituali, mi ribellai. Anche questa è una specie di ricatto. Devo confessarti che soffro di accidia, di aridità spirituale e di torpore dell'anima. Ho periodi di profonda stanchezza in cui la vita non mi dice nulla e tutto diventa grigio. Non voglio passare da una fantasia senza senso all'altra. Voglio, e qui la sua voce divenne un sussurro, voglio una fiamma luminosa che bruci senza vacillare. Sei un monaco senza Dio, lo interruppi. Hai mai pensato di farti prete? Ci alzammo. Avevo detto troppo e Mark si era rinchiuso in se stesso, ma non me ne importava affatto e prima di entrare in mare lanciai la mia ultima freccia. Verrà il giorno in cui dovrai affrontare il vuoto che c'è in te, come lo dovrò fare io, poiché siamo tutti uguali, tutti ci gettiamo a capofitto nell'azione del lavoro o del piacere, ma tu sei più saggio degli altri perché te ne rendi conto. Un giorno non sarai più in grado o non avrai più la volontà di comperarti un biglietto per Sinchiang o per Timbuktu. Non potrai fuggire da te stesso per cacciarti nell'eroismo e nelle guerre. E lo stesso sarà per me. Naturalmente Mark non mi rispose e prese invece a parlare di conchiglie. Non riconosceva a nessuno il diritto di scandagliare il suo animo e aveva ragione, poiché non è permesso oltraggiare in tal modo un altro essere umano. All'assalto al suo intimo oppose un'implacabile mitezza, un insormontabile muro di affascinante gentilezza. Balzò fuori dal cerchio dell'emozione, citando alcune strofette comiche, rifugiandosi nel riso e nella felicità. Divertente era il suo aggettivo preferito e noioso la sua peggiore condanna. Era essenzialmente maschio, poiché tutti gli uomini sono creati per fuggire. Eppure avendo 36 anni era un fanciullo nell'infinita capacità di ripresa da ogni emozione e così doveva essere. Parlando di conchiglie, nuotammo fianco a fianco nell'acqua liscia, poi io accelerai lasciandolo indietro. Nuotai fino a Middle Bay, distante 3/4 di miglio, e l'acqua fresca mi lavò da ogni desiderio, ridando lucidità ai miei pensieri. E quando tornai a riva, sapevo che l'avrei accettato, accettando con lui il dolore e il disastro finale. Non potevo rifiutare quello che mi veniva offerto. Mi tornò alla mente una strofa di Houseman, il poeta preferito di Mark. Il re, con metà oriente ai suoi calcagni, si incammina dalle terre del mattino. I guerrieri scavalcano i fiumi, le loro frecce oscurano l'aria. E colui che resiste morirà inutilmente. E la via del ritorno gli è preclusa. Sulle rocce umide di mare gli Spartani sedettero a pettinarsi i capelli. Quella sera Mark mi riaccompagnò a casa. May rimaneva dagli hangar e Pils Bay. Manciate di stelle erano sparse per il cielo senza luna. Passando da Deepwater Bay, sulla via del ritorno all'ospedale, Mark fermò la macchina. Sull'acqua nera, in lontananza, spuntavano le luci delle lampare da pesca. Due giunche, con una rete sospesa tra di loro, si allontanavano lentamente l'una dall'altra, descrivendo un arco per aprire la rete. Dalla direzione opposta, un sampan carico di torce accese e di grosse lampade ad acetilene puntava sullo spazio libero fra le due giunche, sopra la rete nascosta nell'acqua. Attratti dalla luce, i pesci lo seguivano, rimanendo intrappolati. Allora i pescatori delle due giunche ritiravano la rete col suo carico guizzante. Mark mi posò lievemente la mano sulla spalla. Non voglio complicarti la vita, disse. Inoltre dovrei forse pensare prima di tutto alla mia famiglia. A essere sincero ci penso sempre, tuttavia non posso lasciarti andare. Eravamo condannati, prima ancora di incominciare, poiché tutto era contro di noi. Beh, che il nostro destino si compia, dissi, per il bene e per il male, e cerchiamo di comportarci da adulti, ma sei tu che devi decidere perché sei più forte di me. Oh no, credo che tu sia più forte. Non è vero, perché io sono sempre sulla difensiva, mentre tu sei mite, tu non porti corazza, non c'è nulla di più forte al mondo della dolcezza. Ti seguirò. E sebbene attendessimo ancora 3 settimane, la fine fu segnata da quel momento e avvenne quello che doveva avvenire. Il destino aveva teso le sue reti e acceso le sue lampade. E deliberatamente entrammo nella trappola a occhi aperti, come i pesci di Deep Water Bay.